davvero qui talvolta nel mistero. Tanto io non so come mai scelte fatte le rifarei. Faccio quello che mi pare nella vita che vuoi fare. Sei sicuro, pensa bene, ti avevo detto di far così. Ma io sto qui e cercherò di fare quello che so che non mi conviene ed evitare quelle persone che non ti sanno capire e ti diranno fai così, mica così. E allora sì, faccio così. La vita, quel pezzo di vita, la scarpa bruciata, la giacca strappata, il capello a caso, il ginocchio sbucciato, gli occhi da sole, quello sguardo lì. Chissà dov'è, chissà dov'è, che ci vuoi fare? Io sono sempre qui, mi va così, o forse no, io non lo so. Nella vita lo sai che in fondo tu avrai sempre qualcosa da fare, bagagli da fare, letto da fare, un buco da tappare. Questa vita che io non so che cos'è, ma sentirò, io sentirò, oh oh oh, che sento che c'è, sento che c'è davvero. Questo lo so davvero, sì.